La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 e buon primo maggio naturalmente a tutti, la festa del lavoro, e però proprio approfittando del fatto che oggi è un festivo e dopo aver giustamente speso una parola sul fatto che potremo tornare a celebrarla in maniera più felice tutti il giorno in cui avremo significativamente aumentato la partecipazione al mercato del lavoro italiana, che ripeto è 20 punti sotto con il nostro 57% scarso a quello dei paesi che funzionano meglio in Europa, 20 punti, pensate un po'. Detto tutto questo, io approfitto del giorno festivo, quindi dell'atmosfera più rilassata del vostro ascolto, di cui vi ringrazio in diretta in podcast come sempre, e vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, per dirvi che oggi deliberatamente ho scelto di trattare un tema che è di quelli che dividono e infiammano il dibattito pubblico in questi anni. Lo infiammano ogni qualvolta si ripete purtroppo, e purtroppo troppo frequentemente, un caso di fronte al quale la questione si riapre. Esattamente tutte le volte, riproponendo lo stesso scontro frontale tra opinioni contrapposte e lo stesso, ohimè, infruttuoso adoperarsi la politica, chiacchiera da una parte e dall'altra, lasciando le norme come stanno. Di che cosa parliamo oggi? Traendo spunto da un libro dedicato a questo tema, al tema delicatissimo della legittima difesa. Perché da anni nel nostro paese, tutte le volte in cui il membro di una famiglia nella cui casa hanno fatto irruzione rapinatori armati, o un esercente commerciale nel cui bar, nella cui tabaccheria, nella cui officeria hanno fatto irruzione rapinatori a mano armata, si trova a reagire con armi detenute legalmente in ognuno di queste vicende. Tutte le volte riparte il circomediatico giudiziario a partiti contrapposti, e tutte le volte in realtà noi non facciamo un passo avanti nell'analisi della questione che in ognuno di questi episodi deve, sto in altre volte, deve incardinarsi sulla condizione delle persone che sono oggetto e vittima della violenza, delle circostanze diverse caso per caso in cui affrontano e reagiscono istintivamente a quella violenza e a quella minaccia, e tutte le volte invece parte lo scontro tra chi le considera killer e chi le considera eroi. Pensate che solo negli ultimi 10 anni sono state 323 le vittime innocenti, cioè tra coloro che sono stati oggetto di rapine a mano armata in case, ville o in esercizi commerciali, spezzate da rapine a mano armata. Lo sfondo, cioè la norma che di volta in volta viene impugnata, è quella dell'articolo 52 del codice penale, la legittima difesa. È una norma che è data al codice, purtroppo, quindi stiamo parlando di una norma di un codice fascista, è stata emendata nel 2006 solo per quello che riguarda le reazioni in casa, ma in realtà le modifiche del 2006 sono rimaste praticamente non significative. Quella, l'articolo sulla legittima difesa, individua due categorie che devono essere necessarie perché la reazione sia legittima difesa, cioè la persistenza della minaccia all'atto della reazione da una parte, e dall'altra la proporzionatezza della reazione. In altre parole, chi detenesse un'arma legalmente e fosse stato picchiato, minacciato da gente con la pistola spianata, si trova poi di fronte a un'indagine penale nella quale verrà passato al microscopio sia il fatto se in ogni secondo in cui ha esploso un colpo di pistola, di fucile o di qualunque arma, in ognuno di quei secondi la minaccia deve essere persistente a se stesso e ai suoi familiari, sia il fatto che in ciascuno dei colpi sparati eccetera eccetera debba essere proporzionato al fatto che l'offesa e la minaccia sia persistente. Questa norma apparentemente semplice non lo è affatto, calata nel quadro dell'istintività, dell'immediatezza, del turbamento psichico violentissimo di fronte ad aver subito violenze a sé, ai propri familiari, eccetera, eccetera. e su questo verte ogni procedimento. Sullo spaccare il capello in quattro di fronte a ogni singolo istante nel quale ci deve essere la perduranza dell'offesa della minaccia e la proporzionatezza secondo per secondo anche alla stessa postura del rapinatore. Perché se il rapinatore si sta per un qualunque movimento torcendo, fa un atto di torsione e risulterà dalla perizia che lui lo avrete colpito con un foro d'ingresso alla scapola e non la parte anteriore del torace, ecco che in quel caso scatterà il pubblico ministero dicendo: vedi che non era persistente l'offesa? Ecco, riesaminare vicende che collassano la vita delle vittime in pochi secondi con questa metodologia da vetrino al microscopio è il compito impossibile quasi di volta in volta, che genera delle situazioni terrificanti. Perché questa volta ho deciso di parlarne? Io non entro mai nelle polemiche politiche e giornalistiche delle vicende volta per volta, anche perché ammetto che mi sono persuaso che è molto complicato da fuori nei primi giorni capire e apprezzare ogni singola sfumatura di quello che è avvenuto. Siccome per esperienza non mi fido di solo di quello che dicono le fonti di polizia giudiziaria nelle prime ore, io mi astengo di solito in questi dibattiti. Ma invece c'è un'occasione, e questa occasione che io calorosamente sottolineo a tutti come un'occasione da non perdere è l'uscita di un libro che ho trovato straordinario. Questo libro si intitola Legittima difesa, la vera storia di una rapina finita nel sangue. Si riferisce a una di queste vicende avvenuta a Milano in un bar tabaccheria nel 2003, ha la particolarità di essere scritta da due dei figli del tabaccaio che reagì, la particolarità nella particolarità che uno di quei due è stato anche, insieme a un collega, avvocato difensore del padre, ripercorre in maniera fredda, oggettiva, tutti i passi delle indagini, delle richieste del pubblico ministero nel giudizio di primo grado, della sentenza poi in corte d'assise d'appello nel secondo grado, fino alla Cassazione, 9 anni dopo, e però fa parlare alla fine anche il padre che ha reagito sparando, gli altri fratelli, perché ce ne sono, c'è un altro fratello e c'è un'altra sorella oltre ai due che firmano i libri, un prete che conosce bene la famiglia, e ciascuno poi anche dei familiari intervista gli altri su questa storia. Quindi è una storia vista momento per momento, però con acribia, posso dirvi, cioè non c'è nessun, non troverete una sola parola di difesa precostituita e pregiudiziale. Il tabaccaio si chiama, perché è ancora vivo, Giovanni Petrali. Nel giudizio di primo grado il pubblico ministero chiese per lui l'omicidio volontario e il tentato omicidio, quindi per omicidio volontario si beccava almeno 21 anni e il tentato omicidio è un aggravante, se ne poteva beccare 24. C'è la ricostruzione della prima perizia depositata dal pubblico ministero, che verrà poi totalmente ribaltata da una perizia chiesta invece nell'incidente probatorio. Ciò malgrado si arriverà a una condanna di primo grado che non accoglie la richiesta del pubblico ministero che vi ho ricordato prima, cioè quella dell'omicidio volontario, del tentato omicidio, ma sposando le perizie successive a quella prima del pubblico ministero e quindi dando una lettura completamente opposta di come sono andati i fatti, dove sono stati sparati i colpi, eccetera eccetera, accetterà il fatto che era legittima difesa, cioè i colpi erano stati sparati dal tabaccaio di fronte a una persistente minaccia all'interno del negozio e non quando erano usciti, come il pubblico ministero chiese nella ringa dicendo che li aveva giustiziati e raggiunti fuori per strada. Ecco, ciò malgrado ci sarà una condanna alla detenzione per eccesso colposo di legittima difesa. Al secondo grado invece si riconoscerà pienamente la legittima difesa. È questa la storia. Gli autori di questo libro sono due dei figli di Giovanni Petrali, appunto, cioè Marco e Nicolò. E con noi oggi Nicolò Petrali, che è giornalista, mentre il fratello Marco è avvocato, ed è anche con noi il prefatore del libro. Il prefatore del libro che ha insegnato all'università a uno dei suoi figli e aveva incontrato, sia pure senza dar troppo peso, il padre prima delle vicende, cioè il professor Marco Bassani, che insegna storia delle dottrine politiche all'Università degli Studi di Milano. Allora, saluto entrambi e li ringrazio. Grazie Nicolò. Grazie, buon pomeriggio. Grazie dell'invito. E grazie a Marco Bassani. Grazie, buon primo maggio a tutti. Petrali, ma la mia sintesi è abbastanza fedele come sono andati i fatti oppure no? Assolutamente, sì sì, hai ricostruito perfettamente tutto quello che è successo. Il libro nasce proprio con lo scopo di elevare un po' il dibattito su questo tema della legittima difesa, che è sempre costantemente politicizzato da una parte e dall'altra. E nasce anche per rendere giustizia a un uomo che comunque ha lavorato tutta la vita e che si è beccato per tanti anni l'accusa di essere un killer e l'accusa di aver colpito questi due malviventi mentre stavano scappando. Perché questi due malviventi, colpiti invece all'interno, come ricostruisce la perizia, non quella del pubblico ministero, dell'esercizio, dei due, uno è ucciso, muore, l'altro gravemente ferito, sono entrambi recidivi, il primo con 4 condanne, il secondo con 2, eppure per anni, naturalmente su Giovanni Petrali, la durezza della contestazione delle fattispecie da parte del pubblico ministero lo fa apparire come un killer, tanto al punto tale da creargli un'infinità di problemi, ovviamente psicologici e così via. Professor Bassani, io comincio da lei, anche perché so che poi ci deve lasciare presto. Lei ha fatto una prefazione nella quale lo Stato ne esce abbastanza a pezzi. Ma io francamente mi rendo conto che oggi c'è un grossissimo scontro politicizzato sul diritto penale, è inutile negarlo, cioè destra e sinistra, o comunque una visione, due visioni diverse della vita, proprio si scontrano su questa specifica questione della legittima difesa, cioè diciamo le visioni stataliste classiche non vogliono lasciare nulla in cui il giudice non possa entrare. Viceversa io sostengo, e ovviamente questa è la norma che tu hai richiamato, è del periodo fascista, quello, il periodo in cui tutto per lo Stato, tutto deciso dallo Stato, in cui lo Stato si cala anche in una situazione assolutamente straordinaria ed emergenza, quella in cui ti entra un ladro in casa, armato o non armato, e mette a repentaglio la tua vita e la tua incolumità fisica. Io sostengo, a dire il vero, invece, che il primo principio assoluto della civiltà giuridica è che chiunque entri nel domicilio dell'altro si mette alla mercé del padrone di casa, naturalmente violando il domicilio, bisogna stare attenti, cioè il giudice deve vedere se non si tratta dell'amante del marito, dell'amante della moglie, che se non ci sono delle finte di questo tipo, ma ovviamente stabilita l'aggressione dentro il domicilio, che l'aggressione è l'ingresso nel domicilio, a quel punto spetta al padrone decidere cosa farne, perché questo è il primo principio giuridico che tutela tutto, è un principio giuridico generale, perché lì non c'è lo Stato, non ci sono le forze dell'ordine, non c'è nessuno, si trovano due persone. Certo è, tutto il diritto penale ormai viene vissuto da quasi, diciamo, dalla totalità come se il reato non fosse commesso nei confronti dei singoli, ma fosse una ferita inferta al corpo sociale. E allora lì vogliono entrare naturalmente i giudici, decidere, mettersi nella situazione di chi effettivamente ha subito l'aggressione. Ma io credo che questo sia totalmente impossibile, soltanto colui il quale l'ha subita veramente può decidere di fare quello che ha fatto, e quello che ha fatto in particolare Petrali, che ha subito un trattamento che è veramente qualcosa di incredibile. Perché il Petrali, lo ricordo, la vicenda del 2003, non si può pretendere che nessuno di voi se la ricordi, ma quando avviene l'irruzione dei due a mano armata, viene durissimamente colpito, e lo testimonia il fatto che poi va in ospedale per un trauma faciale, perde gli occhiali ovviamente poiché è colpito, uno dei due moglie. e uno dei due rapinatori punta la pistola contro la moglie, viene invitato dall'altro a dire spara, spara. Queste sono le circostanze nelle quali, detenendo lui legittimamente un'arma, istintivamente a un certo punto gli viene di reagire e spara i primi quattro colpi in rapidissima successione. E su questi quattro colpi la perizia del pubblico ministero, una perizia incredibile, io vi invito a leggerlo davvero, perché è scritto con tecnica giuridica ma comprensibile per chiunque, come qualmente il perito della prima perizia stravolgerà tutta la catena di eventi per dare argomento e forza alla richiesta di omicidio volontario e di tentato omicidio, cioè di una vera e propria procedura per la quale il Petrali viene descritto dal pubblico ministero come se fosse un giustiziere per strada di questi che oramai stavano scappando, siano liberati del malloppo e così via. Ecco, invece è andata diversamente. Però per anni sul Petrali la procura questo ha fatto scrivere ai giornali. Ora, Bassani, ma lei crede alla possibilità che un giorno la politica, invece di animare sterili insulti reciproci che poi fanno rimanere la norma esattamente così come entra nel merito della norma, esposa un pochino di più quello che lei ha detto? Io non lo credo, no, francamente non sono molto ottimista, perché credo purtroppo che qui ci sia uno scontro, un autentico scontro di civiltà. Cioè, uno è la civiltà che vuole normare tutto e che tendenzialmente vede la possibilità della statizzazione intera della vita associata, e vita associata è anche il confronto tra un criminale e un malvivente che ti entra in casa, e quindi anche questo deve essere normato precisamente. Ma giustamente, come dicevi tu, se per caso si è spostato, se l'ho inseguito fuori, lì per esempio il Marco, che è l'avvocato, Marco Petrali, è molto attento, dice: mio papà ha perso la testa perché ha inseguito fuori i criminali. Cioè, avrebbe perso la testa dopo un'aggressione del genere in cui avevano sottoposto a violenza lui stesso e la moglie. Esatto. Cioè, uno non solo non può difendere la propria vita, ma neanche quello delle persone più care che ha, no? Quindi si giunge ad essere messi, secondo me siamo di fronte a una concezione del mondo e del diritto che è ancora all'interno della piena statizzazione di ogni fatto e di ogni evento giuridico. Cioè, tutto deve essere reinterpretato attraverso le griglie dell'ordinamento giuridico, e quindi ci deve essere un giudice, una persona che ha studiato, che ha passato un concorso, per carità, e che si mette nei panni dell'aggredito e stabilisce esattamente che cosa è accaduto. Secondo me è difficilissimo uscire da questo conflitto. Del tutto improbabile. Intanto, allora, grazie al professor Marco Bassani che ci lascia. Noi, dopo il minuto sul traffico, invece continuiamo con Niccolò Petrali su questo fantastico libro, Legittima difesa, la vera storia di una rapina finita nel sangue, storica edizione, vi garantisco è un libro scritto come se fossero parti terze, e lo so che non ci crederete, ma se lo leggete vi renderete conto che è di un straordinario merito incomparabile, perché ricostruisce questa vicenda. Marco, l'avvocato, la scrive come se fosse davvero un avvocato terzo, passaggio per passaggio. Questo gli rende veramente merito, perché posso dire, mi auguro davvero di avere figli così straordinari. Evidentemente il padre deve aver saputo fare il suo mestiere. Torniamo tra un minuto. Faircam Air and Ocean non conosce confini, spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta la versione di Oscar. Ed eccoci tornati qua in diretta in questo 1° maggio. Ancora buona festa del lavoro a tutti. Però stiamo parlando di legittima difesa, questa volta non perché è successa l'ennesima vicenda italiana e non perché abbiamo politici invitati da una parte o dall'altra, ma perché questo bellissimo libro, Legittima difesa, la vera storia di una rapina finita nel sangue, storica edizioni, scritto da due dei figli di un tabaccaio a Milano rapinato a mano armata mentre lui e la moglie erano nel proprio esercizio commerciale nel 2003, e i due figli, Marco, che sarà avvocato del padre, e Niccolò, che fa il giornalista, hanno scritto a due mani questo libro in cui si ricostruisce l'intera vicenda giudiziaria, paradossale, perché la procura chiederà la condanna per omicidio volontario e tentato omicidio del tabaccaio. Bisognerà aspettare con una perizia completamente sbagliata, che già al primo grado crolla nel giudizio, però arriva comunque una condanna detentiva per eccesso colposo di legittima difesa. Nel secondo giudizio invece si riconosce pienamente il ricorrere della legittima difesa dell'articolo 52. E però per anni Giovanni e Petrali e la sua famiglia si beccano di essere dei killer. Nicolò, voi ricordate anche il tenore testuale dei messaggi che vostro padre e voi ricevevate, in cui si augurava la morte di vostro padre e si dicevano cose inqualificabili di vostra madre. Sì, intanto ti ringrazio per i complimenti che ci hai fatto, sono veramente contento di dire delle cose che hai detto, insomma. L'obiettivo era proprio quello di scrivere qualcosa che fosse imparziale, per cercare di convincere, io ho l'ambizione di convincere anche chi la pensa diversamente da me. Ma poi, ma comunque del fatto che bisogna rimettere mano alla norma, ecco, perché l'idea che si possa ricostruire che cosa è avvenuto secondo per secondo, le perizie non sono in grado di dirlo davvero in maniera incontrastabile, ecco che quindi dipende da fattori che non sono oggettivi. Questo è il punto, perché la persistenza della minaccia e la proporzionalità, quando nostro padre ha sparato i primi quattro colpi in rapidissima successione, tanto che addirittura ne sono usciti nello stesso foro della vetrina, tanto per dire quanto è stato rapido. Voi pensate, cari ascoltatori, a ogni volta che ci sono queste quattro successioni c'è la freddezza da parte della vittima malmenata e senza occhiale di saper giudicare se la torsione di una dei muscoli che portano le spalle a girarsi di x gradi di fronte al fatto di averlo di fronte con la pistola puntata testimonia la sua accertata volontà di far venir meno la minaccia. Ma vi rendete conto che è impossibile? Cioè, è la norma che secondo me è sbagliata. Ma c'è un altro punto che voi sollevate, perché quelli erano recidivi pesanti, quei due. Sì, sì, tutti e due. Il primo aveva quattro condanne per un totale di 8 anni di reclusione, l'altro aveva procedimenti in corso, era stato anche al carcere minorile, al Beccaria. Ma soprattutto vorrei farti notare anche un'altra cosa, che durante la fase dell'incidente probatorio, quindi in una fase antecedente rispetto al processo, dei periti super partes hanno stabilito tre paletti fondamentali che non saranno mai più oggetto di discussione neanche al processo. Il primo, che i rapinatori erano stati colpiti all'interno del bar. Il secondo, che quando il tabaccaio ha iniziato a sparare, i malviventi erano disposti frontalmente a lui con la pistola puntata. E il terzo, che i proiettili hanno colpito i malfattori alle spalle mentre erano in fase di torsione per darsi alla fuga. Quindi, 2 anni dopo l'inizio della vicenda, questi tre punti erano già stabiliti e ci sono voluti altri 7 anni per arrivare alle stesse conclusioni a cui si era già approdati 7 anni prima. Quindi, in teoria, questo processo, a mio modesto modo di vedere, non doveva neanche iniziare, perché quello che poi è successo fuori non è stato oggetto di contestazione. Il processo si è fatto solo su quello che è accaduto dentro il locale. Aspetta, tenete conto, cari ascoltatori, io vedo che qui le prime reazioni, manca dal libro qualunque enfasi o non c'è neanche mezza parola di soddisfazione. Cioè, non è che si dice quei due meritavano, anzi nell'intervista al padre che è compresa, ve l'ho detto, nella parte finale del volume si intervista una vicenda ai familiari per dare ciascuno la propria ricostruzione di come ha vissuto gli anni e la vicenda. Intervista al padre, il figlio gli chiederà: ma tu hai pensato anche poi ex post che meritassero quella fine? Ecco, ma in tutto il libro non c'è niente di tutto questo. Cioè, c'è uno spirito, siccome Giovanni Petrali è fervente cattolico, anzi ci sono molti diversi passaggi in cui si parla di senso di cristiana comprensione, cioè nessuno è felice di spezzare la vita umana o di uccidere il rapinatore, capito? Cioè non è questo il punto. Non stiamo parlando di giustizieri del Far West che non hanno un peso dentro l'anima se uccidono qualcuno. Il problema è come essere giudicati di fronte a quello che avviene. Questo è il punto. Vostro padre, Nicolò, ancora adesso, secondo te, cosa si porta dentro? Allora, guarda, noi ci abbiamo riflettuto molto. Io durante l'intervista ho proprio cercato di capire, perché comunque mio padre è un uomo di una volta, con tutto quello che questo comporta. Una volta significa famiglia contadina, numerosissima, lavorare fin da piccoli senza aver avuto la possibilità di andare avanti con gli studi, fortissimo senso della famiglia, cattolico, cioè, significa questo, vabbè, ma queste sono le generazioni che hanno fatto l'Italia dopo la guerra. Esatto. Esattamente. Sono persone che hanno sudato per quello che si sono costruite e rispetto a noi hanno un concetto di giusto o sbagliato che è molto più forte rispetto al nostro. Non è un caso, secondo me, che molte delle persone che decidono di reagire hanno un'età avanzata, nel senso che magari adesso noi cresciuti, vabbè, io parlo per me che ho 29 anni, quindi sono abbastanza giovane, forse ci penserei io stesso due volte a reagire, perché non vedo diciamo le mie ricchezze come qualcosa... Io ti dirò, Nicolò, che avendo ben presente purtroppo l'articolo 52, io penso che non reagirei. Questa è la tragedia vera, perché a me è chiaro, dopo anni che seguo queste vicende, mi è chiaro che io la freddezza per determinare la persistenza della minaccia e la sua e la proporzionatezza della minaccia non l'avrei mai, cioè io finirei condannato, è ovvio. Quindi io purtroppo sarei con le mani in tasca, darei tutto e non credo neanche, e mi dispiace dirlo perché significa venire meno alla propria dignità umana, alla sola idea che possano picchiare me o mia moglie e io non reagissi. Però purtroppo temo che, avendo chiaro quel caso di articolo in testa, il cervello mi direbbe fermo, che è una follia, cari ascoltatori, però io purtroppo la vedo così, perché figuratevi se io che non vedo niente sono in grado, è lo stesso motivo per cui non detengo un'arma, non sarei mai in grado secondo per secondo di fare l'esame a cui il codice penale mi chiede per non considerarmi un assassino. Ecco, io la vedo purtroppo così. Io infatti verso i vostri accenti nel libro ho provato un rispetto straordinario, perché non so come abbiate fatto. Soprattutto non avrei mai accettato la difesa di mio padre. Ecco, questa deve essere stata, che viene descritto infatti in un capitolo in maniera molto problematica, perché significa porsi il problema di come il pubblico ministero ne approfitterà, significa porsi il problema in corte d'assise di come i giudici, la giuria popolare dirà: ma tu sei figlio, non sei l'avvocato, cioè boh. Sì, in questo senso il lavoro di mio fratello è stato straordinario, anche perché io ero molto piccolo. E pensate quanto possa essere difficile difendere il proprio padre quando l'accusa è omicidio volontario e rischia 21 anni di reclusione. Mio padre aveva 69 anni, quindi questo avrebbe voluto dire che passava il resto della vita in galera, è ovvio. Della vita in carcere, certo. E poi un'altra cosa che ci tenevo a dire è che io mi sono posto anche questo problema: siccome si sente spesso parlare di giustizia fai da te, questo fai da te è un modo di, come dire, screditare, sminuire il concetto di giustizia, giustizia inteso come G maiuscola, certo. G maiuscola, perché se io non ho una divisa e non sono rappresentante dello Stato, non sono in diritto di poter fare giustizia se vedo il compiersi di un reato, cioè se io vedo una donna che sta violentata. Questo è l'articolo 328 del codice di procedura penale. Invito chiunque creda, da cittadino comune, di poter intervenire in flagranza di reato per arrestarne il committente a pensarci mille volte, perché non è così alla luce della giurisprudenza, anche se l'articolo dice così. Comunque, leggete questo libro se volete, e fuori da ogni polemica politica, Legittima difesa, la vera storia di una lapina finita nel sangue, raccontata da due dei figli di un tabaccaio che reagisce, finisce nei guai per anni, ma alla fine verrà assolto, ma all'inizio è accusato dalla procura di omicidio volontario. È il caso appunto di Giovanni Petrali, e sono Nicolò e Marco Petrali ad aver scritto questo libro, Legittima difesa, la vera storia di una pina finta nel sangue. Buon primo maggio a tutti.